Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Mi domando, io passo le giornate a rispondere a quelle persone che mi chiedono perché continuo ad ascoltarti. Io ti considero uno dei giornalisti più intelligenti della radio e poi tiri fuori delle puttanate che non so come fanno a venirti fuori, ma tu la riascolti la tua trasmissione quando hai finito di farla, alla sera, quando vai a casa, oppure boh, cancelli tutto e va bene così. Puoi fare quel che ti pare, Cruciani, ma io spero e mi auguro, e vivamente mi auguro, che tu riesca a vergognarti dopo esserti riascoltato più volte dopo aver detto quelle cose. Chi non è d'accordo con Renzi è una bestia, è una bestia. Cioè, dice Renzi, o si accolgono i migranti, oppure, diciamo, le destre, quelli che sostengono che magari bisogna respingerli, che non bisogna far entrare nessuno, che non bisogna far entrare quelli che hanno bisogni economici, diciamo, chiamiamoli così, tutti quelli, insomma, che si oppongono alle idee, non si sa quali, sue, del PD, della maggioranza, sull'accoglienza ai migranti, che, ripeto, non si capisce nemmeno quali sono, tutti gli altri sono delle bestie. C'è un livello di umanità sotto il quale non bisognerebbe scendere, arrivare a strumentalizzare anche questo, anche la vita strumentalizzano, non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie. È questa, è Renzi che strumentalizza il bambino morto facendo vedere la sua foto alla festa del Partito Democratico, se non sbaglio, qui a Milano, oppure sono gli altri? In politica tutti strumentalizzano tutti, c'è chi usa la morte di due coniugi, c'è chi usa un fatto di cronaca per fare propaganda, c'è chi usa le foto per fare propaganda, è così e sarà sempre così. Parenzo c'è? Dov'è? No, ma non mi parlo, non volevo interrompere il flusso narrativo, diciamo. Dimmi. Che non sono d'accordo su nulla, credo. Ma di che cosa? Non ho detto di questo editoriale. Ma quale editoriale? Quale mente che ha aperto la trasmissione? Ma quale editoriale? Cioè, è Renzi che strumentalizza partiamo, o no facendo vedere quella foto o no? È Renzi che la strumentalizza o no? Bestie, partiamo dalle bestie. Dalle bestie, no? Sì, partiamo dalle bestie, dai. Partiamo dalle bestie. Il mondo da qualche settimana si divide veramente in due. Sì. Tra Cameron di destra, sì. Merkel, sì. Diciamo di centro, sì. E le bestie, cioè sì. Tutti gli altri. Tutti gli altri, tutti gli altri sono bestie. Diciamo, da chi tutti di sono destra. Scusa, ma che cosa ha fatto di così buono la culona inchiavabile, la Merkel? Scusa, cosa ha fatto? La signora Merkel ha cosa fatto così di, così buona? Ha stanziato. No, ma lascia vedere, cosa ha fatto di euro per i migranti? Ma è davvero così prima. Buona? Oppure è paracula? No, cioè, è oppure si prende semplicemente quelli che gli servono? Si prende quelli che gli servono. Si prende quelli che gli servono. In politica, non solo prende quelle, però fa anche un discorso umanitario. Il discorso, una politica umanitaria, il discorso, il Papa dice che anche una... Renzi non è buono, non è vero che è buono, sì, fa ma di politico. Ma di concreto che succede? Non succede, succede niente in concreto, ad esempio chi succede è, che il Papa, chi chiede asilo politico ha diritto ad averlo. Perciò la Merkel dice un'ovvietà, cioè la Merkel dice quello che quando uno arriva in Germania è obbligato a fare. Sì, cose che però altri infatti non fanno, ad esempio. Ma non è vero, noi pure lo facciamo. Chi arriva in Italia e chiede asilo politico, lo lasciamo magari stare. Senza darle strutture adeguate. Ma beh, quello è un altro discorso. L'Italia può accogliere 100.000 profughi oggi. 100.000. Secondo te bisognerebbe accogliere 100.000 profughi? 100.000 profughi. Aspetta, no, lo dico io. Scusi, il calcolo esatto è 108.000 profughi. 108.000 profughi, bene. Il Papa. Se siamo in grado di avere sì. oggi sì. 108.000 profughi. Poi non lo dico sì, io. Sì, eh. Sì, va bene. Il Papa, una non famiglia di profughi in ogni parrocchia. Ogni parrocchia, ogni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario d'Europa ospiti una famiglia, incominciando dalla mia diocesi di Roma. Questo è il Papa che dice che ogni famiglia di profughi, una famiglia di profughi per ogni parrocchia. È una cosa molto intelligente, cioè, peraltro dice una cosa che dovrebbe dire anche un politico illuminato. Cioè, che dovrebbe che dire c'è. Che ogni famiglia di italiani dovrebbe ospitare un profugo, no, non lui ho capito. Lo fa con le sue strutture, perché lui ha una struttura molto presente. Sì, poi non succederà mai, ovviamente. Che si chiama chiesa. Non succederà mai, ovviamente. Se ogni no? parrocchia ospitasse una famiglia, anche l'impatto stesso sul territorio sì. sarebbe molto diluito. Sì. Perché ci sarebbe un controllo sociale anche di queste persone. Sì, sì. Cosa che oggi invece non c'è. Non c'è. Quindi il Papa, di alcuni politici, è ancora più illuminato e più avanti. È illuminato perché dice bisogna prendere una famiglia di profughi in ogni parrocchia. No, perché ti spiega come tu puoi sì. Il problema lo puoi risolvere senza concentrare tutte le persone a Palagonia sì. oppure a Bergamo Alta oppure tutti in questi territori sì. tutti lì, che chiaramente possono creare un problema per l'impatto su quella piccola sì, società. Sì, ma perché secondo te è realizzabile questa cosa, che una famiglia di profughi in ogni parrocchia è realizzabile? Lui dice, ma che noi... vuol dire un Papa di... non è che fa idee. Cioè non è che è lì per fare il dibattito, per alimentare il dibattito. Ma non alimenta il dibattito. Lo faccia, lo faccia, lo faccia, lo faccia. Ma lo faccia. Di Roma inizi e cominci a farlo. Ma lo faccia, lo faccia. Marino, risponda a una domanda su Esposito, sull'assessore ai trasporti Esposito, su quello che ha detto, il canto Roma merda, il 64, eccetera, eccetera. In realtà solo sul coro Roma merda. È capitato di dire qualcosa al suo assessore Esposito per quelle espressioni che ha usato durante la trasmissione La Zanzara nei confronti dei tifosi romanisti? Ma credo che un sindaco non debba partecipare a dibattiti calcistici, certamente ho raccomandato a tutti di occuparsi delle proprie aree strategiche. Ho raccomandato a tutti di occuparsi delle proprie aree strategiche. Non voglio ricordare le volte in cui, le innumerevoli volte in cui il sindaco Marino in realtà non ha parlato di Roma, ma ha parlato di altre cose, ha parlato di calcio, ha parlato di musica, ha parlato di qualsiasi tema possibile e immaginabile in varie trasmissioni. Oh, abbiamo con noi una bestia, Matteo Salvini, buonasera, buonasera. Se riesco parlo, se no grugnisco. No, no, no, grugnisci un Perché po', dai. Ruggito. Dai, grugnisci un po', bestia, bestia. Ma spesso e volentieri le bestie a quattro zampe sono molto più intelligenti e molto più avanti rispetto a qualche bipede umano. Beh, no, non mi fare l'animalista adesso questa cosa no, qua. No, non l'animalista, però ci sono dei cani che sono molto più intelligenti di qualche uomo, anche di qualche uomo al governo. No, dai, tu vuoi dire che qualche animale che conosce è più intelligente di Renzi, addirittura? Eh? Tu hai fatto nomi e cognomi, io a Renzi ho dato non del cane ma del verme. Va del verme, ecco, però verme pure non è bello, si dava negli anni 70 verme. Ragazzi, ma usare durante un comizio del PD la foto di un bimbo morto per fare la morale agli altri quando la prima coscienza sporca è la tua è da vermi. Sì, però Matteo, però bisogna dire pure una cosa, la cronaca la sfruttano tutti, cioè i fatti non di cronaca. Non fare la morale, non fare la morale anche perché hai sbagliato, sei ignorante, perché quel bimbo morto, lacrime, rabbia e una preghiera, scappava dalla Siria, di cui Renzi e i suoi amici altrettanto vermi che governano l'Europa ci strafotte da anni, perché che milioni di siriani vengano massacrati, deportati, decapitati, sì, bruciati, impiccati, se ne strafottono, forse perché non c'è abbastanza petrolio, forse perché era più interessante. Però siete la voi contro l'intervento militare, amico mio. Siete voi che in genere siete contro l'intervento militare. Io in Siria manderei gli aerei domani, perché contro l'ISIS userei ogni adesso? Mezzo inventato dall'uomo. No, non da adesso. Adesso, non amico da adesso. Mio. Non da vabbè, adesso. Comunque, non ti sei pentito di aver dato le berme a Renzi? Ma figurati, io spero che chieda scusa lui ai familiari di quel bimbo, che avrebbe potuto crescere in Siria se le istituzioni internazionali avessero mosso un dito, mentre ancora oggi ci sono altri bimbi non fotografati che stanno morendo negli ospedali siriani perché l'Italia e l'Europa hanno l'embargo però contro il governo siriano. Sulla questione sulla questione di sfruttare però le foto, i fatti di cronaca, voi non siete secondi a nessuno, cioè ma secondo me no, anche giustamente, perché la politica è fatta così, muoiono i due coniugi giù in Sicilia e tu vai al Caradimineo a tra virgolette con le bandiere della Liga. No, io sono andato al Caremineo per quattro volte. Io sono andato al Caremineo. No, però ho capito, volte. Tu parli sempre di fatti di cronaca. Dobbiamo dirla tutta. Sono andato a incontrare anche le due figlie di quei due coniugi uccisi, senza un fotografo, senza una televisione, senza un giornalista. Per portare rispetto a cioè, loro. Qual è Renzi è verme perché? Renzi è verme perché? È verme perché? Perché ha mostrato la foto e ti ha dato della bestia, ha dato diciamo a chi. No, ma uno può darmi della bestia, chi se ne frega, ho preso insulti e minacce ben peggiori, hanno scritto Salvini impiccato a piazzare Loreto, quindi figurati se mi offendo se uno mi dà della bestia. Mi arrabbio perché prende per scemi gli italiani che non la pensano come lui dandogli delle bestie. Uno può attaccare Salvini, ci sta. Non puoi dire che quelli che pensano di mettere delle regole, dei limiti all'immigrazione sono delle bestie, perché sei un infame. Se sei presidente del Consiglio, governa, risolvi, fai qualcosa, non puoi insultare gli italiani. Le vite umane, chi invece ad esempio è stato come voi contro la missione che andava a recuperare. Ma che c'entra? Tu entri nel dettaglio. Lui ha detto che c'è da una parte, ci sono dalla parte quelli che quelli umani e ci sono delle bestie. Dei corridoi umanitari, dei taxi del mare che vanno a prendere questi che partono. Questo è il punto oggi, vero? Che è impopolare. Ma scusa, ma dire, se uno invece dice che non deve entrare nessuno se non quelli che hanno che sono rifugiati politici. Dramma del bambino. Ma che vuol dire? Ma quello sarebbe stato accolto. Quello sarebbe stato accolto. È il Canada che l'ha rifiutato. Quello sarebbe stato accolto, è un rifugiato. È diventato il simbolo di una tragedia, non capire sì, ma perché? Non credo, perché chi vuole per esempio perché le regole? È diventata la foto simbolo, come a ridaglia con queste foto simbolo, che retorica. Che ferma il cannone, è una foto simbolo di un'epoca. Scusa. Che non avete capito, ma Parenzo pensa che gli italiani abbiano l'anello al naso? No, ma no. Parenzo pensa che gli italiani siano un'altra cosa, imbecilli, manovrabili. Ti voglio chiedere un'altra cosa, ma perché tutti quanti, Parenzo, vanno a come dire, si prostrano di fronte a Bono, quello degli U2? Mi vuoi spiegare questo? Prima vedevo delle immagini in televisione, vedevo Bono degli U2 che parlava e parlava di migranti che non dovrebbero essere chiamati migranti, ma dovrebbero essere chiamati rifugiati. E tutti quanti a fare sì, di fronte a delle banalità, di fronte a tutti Renzi, il commissario dell'Expo, tutti a fare sì, hai ragione, di fronte a delle banalità colossali di un signore multimiliardario che ho letto ma i cantanti hanno anche quella cosa lì, no? Che uno li ascolta e li considera dei guru. Che ne dici tu, Matteo, sul fatto che Bono dice che i migranti non dovrebbero essere chiamati ha ragione nel merito, ma che non dovrebbero essere chiamati così ma rifugiati? No. Tanto è grande come cantante quanto è ignorante. Ignorante. Perché il profugo è riconosciuto come tale se scappa da una guerra e se viene riconosciuto profugo alla fine di un percorso. Gli altri sono tutti immigrati. Perché altrimenti è facile dire sono profugo di guerra. Basta di pronto, ma sono profugo di guerra. Se fossimo io, te e i tre quarti degli ascoltatori sintonizzati in questo momento al posto di Bono degli U2, col conto in banca di Bono degli U2, probabilmente anche noi potremmo pontificare a spese altrui ignorando quella che è la realtà vera, perché non penso che Bono degli U2 prenderà mai un treno in stazione centrale a Milano a Termini a Roma alle 11 della sera, e lì la distinzione fra profughi e clandestini è molto evidente in stazione centrale a Termini la sera, ma Bono degli U2 vive su un altro pianeta, buon per lui. Allora fermi tutti che c'è il traffico. Le strade in diretta saranno anche utili, ma sono una boiata pazzesca, una cosa di una noia bestiale. Eliminatele. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta La Zanzara. Going to the city. Sì, però David, la frase più bella del weekend l'ho letta a proposito del matrimonio di Calderoli. Tu sai che Calderoli si è sposato, no? Come no? Certo. Con la signora Gianna Gancia in Piemonte. Pare che Salvini lo abbia chiamato per fare gli auguri, credo che non sia un reato ancora, ma no? Ci mancherebbe. Però lo ha chiamato anche Berlusconi, il quale avrebbe detto, l'ho letto sul Libero questo, dopo tutto quello che ti ho insegnato, frasi di Berlusconi, dopo tutto quello che ti ho insegnato non hai imparato niente, perché le case, le barche e le donne si devono affittare. L'ho trovata una frase meravigliosa. Un insegnamento per la vita, diciamo, quasi, perché Berlusconi Berlusconi invece esattamente il contrario è stato, evidentemente lui ha sempre coccolate le donne, anzi sì, le però è arrivato alla conclusione che si devono solo affittare, non si devono sposare, dai su, ma lo dice come battuta, dai su. Tu che ne pensi, Matteo? L'affitto lo prendo in considerazione per i bilocali, non per altro. Non ho esperienza di barche, non ho esperienza di altro. Cioè tu ti risposeresti, no? Diciamo la verità. Questo voleva dire Berlusconi. Ma a un certo punto il matrimonio, a un certo punto uno ha già dato da questo punto. Porto lì rispetto per le traversie altrui e mi tengo ben strette le traversie mie. Senti, devo dire che su questo abbiamo un punto straordinariamente in comune. Su tutto il resto credo ci sia un abisso in mezzo, ma su questo credo che Salvini sia ragionevole. Cioè che cosa? Ma scusa, ma Davide, adesso al di là di, fai finta che tu non sia in diretta radio. Allora, il Papa invita ad accogliere una famiglia di profughi per ogni parrocchia, fa bene, fa il Papa. Mi piacerebbe sapere se la stessa disponibilità c'è per una famiglia di italiani in difficoltà per ogni parrocchia. Magari ci sono parrocchie che lo fa la Chiesa. E oggi esce la notizia che la legge Fornero, contro cui stiamo combattendo da 3 anni, che è una legge infame, sbagliata, immorale, assassina, che doveva essere cambiata quest'anno, verrà cambiata l'anno prossimo perché non ci sono i soldi. Sì. Ma scusa, poi la gente non si deve incazzare al di là di Salvini e della Lega? Metti nei panni di un esodato o di uno che ha 62 anni e adesso deve tirare la carretta per 5 anni. Non voi avete la capacità di fare il frullato, cioè di parlare perché sta male, ci sono i soldi contro per i migranti, questa è la vostra ci capacità. Sono 3 miliardi di euro, perché ci devono essere 3 miliardi di euro per ospitare fino a 200.000 non profughi, ma fino a prova contraria i migranti clandestini, e non ci sono altrettanti soldi per rivedere la legge Fornero. Ma quel bambino per te, se fosse arrivato in Italia, era un clandestino, il bambino della foto? In Siria c'è la guerra, i siriani vanno accolti. I siriani vanno accolti, tutti. Cioè, li prenderei... scappano dalla guerra, a Kobane c'è la guerra. Cioè, dunque, i siriani li prenderesti a casa tua? Sì, ma il problema è che di siriani in Italia non ne arrivano, perché oltretutto spesso e volentieri sono cristiani, sono davvero perseguitati, sono laureati, sono medici, sono ingegneri e scappano davvero dalla guerra. Ma la Merkel che non è scema, ha detto io mi piglio i siriani e voi vi pigliate. Come ha detto la Le Pen, vuole nuovi schiavi, sei d'accordo? Ma non lo so, sicuramente non è che la Merkel si sia improvvisamente umanizzata. Così ha detto la Le Pen, vuole nuovi schiavi. La Merkel fa i suoi interessi. Io per un certo verso invidio i tedeschi da Merkel, perché hanno una tizia che fa gli interessi si dei tedeschi, i cazzi loro. Noi al governo abbiamo un tizio che fa gli interessi anche lui dei tedeschi. Senti, ma ho letto una frase di Berlusconi che dice troviamo un posto al Milan a Salvini. L'hai letta anche tu? No, non l'ho letto. Una frase. Siccome Berlusconi sa che oggi l'uomo forte del centrodestra si chiama Matteo Ruspa Salvini, allora lui che comunque è debole dice meglio lo piazzo al Milan così me lo tolgo dalle balle. Al Milan. Ma io mi accontento di andare a vedere una vittoria del Milan, preferibilmente nel derby, ma non ho bisogno di posti di lavoro, onestamente. Berlusca, che è un imprenditore, dice come risolve il problema di un mio concorrente? Gli do un posto, lo metto al Milan. Non siamo a disposizione. Se serve faccio 10 minuti a centrocampo, visti i problemi che abbiamo a centrocampo, ma di più no. Cioè però, non vai. Non diventeresti mai dipendente di Berlusconi tu? E perché dovrei dipendere? E che ne so, quello Berlusconi voleva dire, diamogli un posto al Milan. Io mangio pane, Lega e Milan da quando ho 5 anni, quindi se potessi fare qualcosa per la mia squadra lo farei volentieri, ma al di là dei rapporti di lavoro e della politica, ovviamente. Senti, Marchionne ha detto che Renzi è il prossimo leader del XXI secolo, non c'è un leader migliore. Certo, ma Marchionne per Renzi è una... Ma è un leccaculo? È un leccaculo? No, dove fanno le tasse Marchionne? No, a Zug, forse, là in Svizzera. In Svizzera, no. È simpatico farsi fare la morale, farsi spiegare agli italiani cosa devono fare da gente che paga le tasse all'estero. Su questo ha ragione. Quanto è costata la Fiat agli italiani? Vabbè, questo è Marchione, è un genio, dai, Marchione è un genio, dai. Su questo ha ragione Salvini. Sì, dal tuo punto di vista è un genio. È un genio, dai, è un genio assoluto. È l'unico punto di vista che interessa. Cioè dici non ci però dici non ci rompe. Renzi pari sono per quanto mi riguarda. Cioè dice non ci rompesse il cazzo sull'Italia uno che paga le tasse in Svizzera. No, dica la sua, ma senza poteri oracolari, contribuisci alla crescita del PIL italiano, quanto prende la Fiat, quanto ridà la Fiat, con tutto rispetto per gli operai. Marchione è bravo a fare il suo mestiere, che però mi dica che Renzi ha fatto riforme fenomenali. Ecco, c'è un ascoltatore che mi può spiegare quanto mette il telefono per risolvere le aziende fenomenali. Le aziende sono sempre dalla parte dei governi, come sai. A dopo, ciao, giornale radio. Volevo dire che la Zanzara è uguale a Radio Padania. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il sole 24 ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. La Zanzara. Però dai, lo sanno anche gli ascoltatori, a volte è costretto a sostenere delle cause che si capisce lontano un miglio che a cui non crede neanche lui, dai. Questo signore ha dei problemi, va aiutato. Guarda che c'è gente strana in giro, c'è gente strana in giro. Allora, la notizia più importante che ho letto oggi, caro Parenzo, è in realtà il fatto che hanno operato al pisello Fiorello. Cioè Fiorello ha rivelato di essere stato operato al pene. Gli hanno messo, non so, 7 nei, gli hanno tolto 7 nei sul pisello, senti un po'. Tiro, mi abbasso le mutande, tiro fuori la belva. A un certo punto mi vede che ho 7 nei sul pisello. 7. Mi fa, ne abbiamo 7. E faccio, che bisogna fare, scusa? Li togliamo. Perché non si sa mai. Mi hanno fatto le punture di anestetico proprio lì. On the dick. Che quando entra l'anestetico nel pisello, il pisello fa così, guarda. Oddio, mamma mia, che impressione, ti rendi conto? L'anestetico. Poverino, no, ma è terribile. Ma una cosa tremenda. Io una volta. Si scherza, ma insomma. No, io no. Vabbè, sì, è terribile, adesso non esageriamo, ci sono cose più gravi, naturalmente, no? Beh, che togliersi sì, però, 7 nei sul pisello. Cioè. Però mi fa impressione, cioè. Cioè, quasi mi tocco, mi si rattrappisce. Una volta a me mi è venuta una roba, anche poco tempo fa, che si chiama. Anzi, mi è pure tornata, mi sa, che si chiama epididimide. Sa cosa fate con... No, non ha niente a che fare con... No, usate, diciamo, l'attrezzo in modo non convenzionale. Ma no, ma che c'entra usare non convenzionale? No, non lo so. Non è assolutamente una... Sono problemi vostri, non so di che interesse siano per il pubblico. Ma sì, ma quello lascialo decidere a me, per fortuna. Sì, una cosa si chiama epididimide. Cioè, praticamente, avevo la febbre, no? A un certo punto vado in bagno, non mi passava questa febbre, mi tocco un testicolo che era ingrossato, cioè mi si era ingrossato un testicolo, una roba tremenda, cioè non in maniera pazzesca, però una specie di palla, capito? Merita una riflessione. No, questo merita un'attentissima riflessione, cioè una palla ma proprio anche grossa se vuoi, no? Allora mi sono preso un colpo, in realtà si chiamava epididimide, un nome tecnico scientifico. Lasciamo perdere, andate a consultare su Google, ho preso un antibiotico, uno dovrebbe stare fermo, a riposo, steso, tremendo. Però no, niente a che fare con malattia di trasmissione sessuale, eh? Niente. 0024 Claudio, provincia di Viterbo, vai. Eccoci qua. Dunque, dimmi. Una piccola domanda e una piccola mezza notizia. Dunque, la domanda è al Papa, o meglio al signor Bergoglio, come lo chiamo io. Sì. Il signor Bergoglio dice che ospiterà le famiglie nelle parrocchie. Bene, ospiterà anche le famiglie arcobaleno, siriane, arabe, perché ci sono, eh? Ci sono anche lì. E quindi non ho capito, scusa, sapere non ho capito questa cosa. Cioè, sapere che cosa? Se ospiterà... Sì, tra le famiglie, sì. Riconoscerà le famiglie anche quelle gay. Beh, non lo so, non credo che farà distinzione tra famiglie... Spero proprio. Cioè, tra profughi proprio. Gay e profughi non gay, Claudio. Ma appunto, appunto, è quello che voglio sperare. La notiziola invece riguarda il signor Giannulli, non so se lo conosci. Sì, Giannulli è un tizio che collabora lì. Col blog di Grillo, amico di Grillo. Allora che vuole, che dice? È uscita con una bella... Stavo leggendolo mentre vi aspettavo, non l'ho letta ancora tutta, ma insomma per tre quarti è sicuramente coincide. Vabbè, allora... coincide con l'accoglienza. No, non ho capito. Un'accoglienza ampia e totale. Allora? È buono, no? Cosa buono? Non ho capito. È buono poter accogliere tranquillamente e non farsi troppi problemi. Ma non ho capito, che c'entra adesso questo tizio che non lo conosce nessuno, questo Giannulli, eccetera? Giannulli è uno dei teste pensanti del Movimento 5 Stelle. Allora dice che bisogna accogliere. Sì. Vabbè, beato lui. Cioè, se no, vuole se vuole... un'ultima cosa. Ma se vuole accogliere tutti, se vuole accogliere tutti, va benissimo. Cioè, se vogliamo accogliere tutti, scusa, anche. Le PD di Mite? Sì, dimmi, caro. Alla fine c'è una T, non una D. EPD di Mite. Sei sicuro? Perché è una infiammazione. Sei sicuro? Sicurissimo. Ce l'ho avuta. Ah, ce l'hai avuta anche tu, anche fratello. Sì. Cioè, che ti sei ingrossato il coglione anche a te? Sì, ma mi avevano appena levato la vescica. Vabbè, ma quello no, per fortuna meno male. Per la stessa ragione, si è infettato, si è ingrossato, stava così. No, sì, ma non è la stessa è cosa. È la prima volta che le succede. È capitata per un'altra ragione, non certamente per un'operazione che non hai fatto. A me è capitato per quello, ma so bene di che cosa parlo. Si ingrossa, dà un fastidio incredibile, sembra che non debba mai sbollire, tanti antibiotici e va via. Lo so, però sai, è tosta, cioè. Sì, vabbè, è tosta. Samuel da Udine, vai, poi bisogna vedere che tipo di epididimite. Sei sicuro che la cosa con la TS controlla? Probabilmente sì. Samuel Udine. Buonasera a tutti. Dimmi. Chiamavo per una piccola proposta, visto che questi immigrati poverini stanno arrivando su carrette malconce, pagano anche 4.000 euro un biglietto. Ma perché non andiamo a prenderli con un bel traghetto della Tirrenia, gli facciamo pagare 4.000 euro e ci gestiamo la loro permanenza con i loro soldi, invece che lasciare questi soldi agli scafisti? Non ho capito, scusa, stasera sono abbastanza di coccio, cioè qual è il punto fondamentale? Mia idea. È l'idea che propose qualche ascoltatore di mandare lì qualcuno per guadagnarci sul trasporto, ma è impossibile fare una cosa. Per ripagare le spese. Ma no, ma ho capito, ma è impossibile, che vuol dire? Ma li mandiamo dove questi? Mandiamo la Costa Crociere o le navi dove? Andiamo in Libia. Ma questi non è che salgono così, pronto, eccoci qui, ecco le nostre navi, salite sulle nostre navi, ma non è così. Ma dai, su, ma non si può fare. È che sali su un gommone o sali su una bella nave del governo italiano? Ma non si può fare, non si può fare, perché non è che questi qua vengono messi di notte sulle navi, che non è che arrivano le navi italiane, venite, eccoci qui, salite su queste navi e arriviamo. Ma è una provocazione, immigrare, non saliresti? Sì, ma so che è una provocazione. Certo che è una provocazione, però... Va bene, Giuliano, Alessandria, vai. Giuliano. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Ecco. Mi saluti Parenzo innanzitutto. Ma sta qui, salutalo tu. E lo abbracci, che è un amico. Sì, salutalo tu, se parla, perché per adesso non ha parlato. Sono qua, caro. Giuliano, sì, ma... Volevo aggiungere due cose a quello che ha detto il signor Salvini. Sì. Ecco. Prima di tutto vorrei dire che si guardasse un attimino allo specchio, che probabilmente è nato in Iran. Non è nato in Padania. In che senso, scusami? Sì, è nato in Iran perché secondo me è l'estremista più grande che ci sia al mondo. Ecco, secondo me. Come fosse un ghiattolato. E poi gli augurerei, dato che lui, secondo lui, è capace di far solo lui, sa tutto lui, un altro anno non avremo più presidente del Consiglio che avremo, ma avremo probabilmente lui. Quando gli asini voleranno, lui sarà presidente del Consiglio. Beh, cala. No, lo calo, dico allora? Questo, perché questo mi sento di dire. No, vorrei che la traversata che facesse lui e i suoi bambini e sua moglie, che la facesse con Caronte. Mm. Ecco. Ma che vuol dire la facesse con Caronte all'inferno? Che all'inferno. Faceva... No, no, è che quello che traghettava le anime verso, sì, esatto, morte. Dato che lui quello facesse che, ma non che poi facesse la fine che faceva fare Caronte, per provare cosa vuol dire, perché tutti quanti siamo qua per vivere, tutti quanti abbiamo dei problemi di sussistenza, di vivere, problemi per pagare le tasse, però non si può essere, non si può essere carogne così. Ma carogne che e vuol dire? E poi la carogna agli altri. Ma non ho capito. Allora, se uno propone delle cose è una carogna. Se uno dice che non devono entrare tutti è una carogna. Ma dico, ma stiamo scherzando o stiamo dicendo sul serio? No, non cioè, se uno sostiene, se uno sostiene che non devono entrare tutti, anzi che ne devono entrare pochi, mettiamo anche che uno dica ne devono entrare pochi, è una carogna, una bestia? Capire che in mezzo a mille su, non diciamo stronzate. Non siano da accettare. Però cerchiamo di fare delle distinzioni giuste, ma... di non dire delle, di non dire ogni volta che apro la bocca dice delle minchiate, scusi il termine perché non sono abituato a dire delle parole, di dire delle minchiate. Va bene, perché ciao Giuliano, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, molti se la prendono con quelle due lesbiche americane, le quali hanno partorito, tra virgolette, con l'utero in affitto, credo, con l'inseminazione artificiale, un figlio, pagando una società, diciamo, chiamiamola così, pagando una società, e questo figlio però è venuto fuori nero, e loro, diciamo, non lo volevano nero. E dunque hanno fatto causa, non è che l'hanno buttato nel cassonetto. Il risarcimento del danno. Sì, il risarcimento non gli è stato concesso perché dice, vabbè, insomma, per motivi loro. Io dico la verità, alla fine uno può contestare queste pratiche, può dire che è una porcheria, può dire che è una follia, eccetera, eccetera. Però hanno ragione loro. Cioè, se uno fa un contratto e tu per errore metti un altro seme dentro e ti viene fuori qualcosa che non vuoi, dal loro punto di vista non è sbagliato chiedere un risarcimento. Beh, può sembrare orribile così, dal punto di vista della legge, cioè, ma no, ma non è questione della legge, merce, è tu paghi un servizio, giusto o sbagliato che sia, può essere un servizio, diciamo, sì, ma dal punto di vista è giusto, poi certo. Paghi un servizio, ti viene fuori un figlio, diciamo, che non vuoi, poi loro è dicono, una follia che si possa decidere questo, ecco, vabbè, però... loro dicono io non figlio nero, no, ma è vero, dal punto figlio di vista nero non lo voglio perché nel quartiere non è ben visto, dicono una follia, no, chiaramente. Ma beh, è sbagliato che si possa mettere per iscritto. Io non lo so se è sbagliato, giusto, ma o sbagliato. Io penso di sì, però. In ogni caso, se questi qua hanno fatto un contratto con qualcuno e questo contratto non viene rispettato, c'è un errore da parte di questi signori che hanno messo dentro il seme di un'altra persona per cui è venuto fuori un figlio mulatto, queste qua, giustamente, questa coppia di lesbiche, giustamente va in tribunale e chiede i soldi a quella banca del seme, a quella società, eccetera, eccetera, che ha fornito un servizio sbagliato. Fermi tutti, vi ricordo sempre 800 24 00 24, aspettate. Velocità. La Zanzara. Guardi che io sono un tossicodipendente della Zanzara, capito? Vi ascolto mattina, vi ascolto la sera in podcast, sempre vi ascolto. Ecco, è un bellissimo Luna Park perché si sente di tutto. Della serie Scontri televisivi, Parietti contro Salvini. Aspetto da voi politici, non discorsi da bar dello sport. No, questo sport. È vero. Salvini, questo questi sono discorsi che fa al bar la gente. No, lo faccio qua, Canale 5. Ok, e lo sento anche al bar. Poi chi parla al bar è un vabbè, politico. Posso dire, e onestamente alle volte è ignorante. Io mi aspetto dai politici, posso dire, vabbè. Io mi aspetto dai politici un discorso di più alto livello. Non si può dire, fare discorsi, li aiutiamo a casa loro, perché vuol dire non conoscere la situazione siriana. Io non credo che nessuno abbia voglia di farsi un giretto su queste carrette del mare che portano quasi al... Ma se non c'è la guerra non è un profugo. Ma no, certo, è uno che si diverte, uno che sta facendo una giornata al mare, ma sostanzialmente. Se non sbaglio, uno che rischia anche... e muore con tutta la famiglia. Andiamo a Catania, Luigi, vai! Buonasera Cruciani, è fantastico sentirvi, perché dimmi, quando hai detto che l'epididimite, guarda, mi hai fatto morire, perché mi fate scompisciare dalla risata, tu l'epidemia ce l'hai in testa, perché dice tutto è il contrario di tutto. Tu, per esempio? Parenzo, Milan e Salvini siete per me, mi fate ridere proprio in una maniera incredibile. Non ho capito, perché siete metti insieme fantastici, perché fantastici. Metti insieme tutte queste persone? Perché siete come quelli del processo del lunedì. Sì. Dite il tutto è il contrario di tutto. Ma per esempio, fammi un esempio concreto, Luigi. Siete una droga, non posso non ascoltare. Ma quello è un altro discorso, ecco, va bene. Sì, questo qua è un complimento, guarda, un complimento. Se lo capisci è un complimento. Poi per quanto riguarda i migranti e il Papa che finalmente si è svegliato per dire che praticamente queste chiese si debbono riempire di immigrati, ma vadano fuori loro, e che stanno chiusi tutto il giorno a non fare una mazza. Ma chi? Vadano fuori, i preti. Se abbiamo 12 milioni di chiese, 12 milioni di chiese abbiamo in Italia e sono vuote. Vuote, tutto il giorno vuote. Tu dici è per questo che dice, perché il Papa dice prendiamo gli immigrati, tanto sono vuote le chiese. Ci sta solo un prete in ogni chiesa. Ma tu te lo immagini, il prete non fanno una mazza dalla mattina alla sera, è come Milan che trasmette la mattina e poi si sparavanza tutto il giorno piedi a fare compere. Adesso non è proprio così. Che vadano fuori, che vadano. Ma che vuol dire vadano fuori dove? Vadano fuori ai Vangelo Zero come faceva Gesù, di camminare ad aiutare i poveri, come faceva Gesù? Di aiutare, di camminare, ad aiutare i poveri, di andare in giro, di dare una mano, di dare un bacio, di andare dai drogati, non stare in chiesa. Noi abbiamo più chiese che case, non pagano l'ICI, non fanno una mazza, stanno lì a fare cosa? Tutto il giorno, a fare cosa? No, ma questo può avere anche, può anche avere una certa, può anche essere ragionevole quello che dici, Luigi. Stai calmo, lo però. Lo so, Cruciani, lo so. Io lo so che ho ragione, perché praticamente io faccio la beneficenza, io sono stato in Etiopia, so cosa vuol dire, cosa passano, come diceva la Parietti, cosa passano queste persone e che cosa vengono a fare qua. Ma io quando sento Salvini, quando sento altre persone, mi viene solo da ridere, perché queste persone sono agiate, sono state sempre con il culo seduto e su un divano, sai, e non è, anche l'acqua, loro desiderano anche l'acqua, tu sai che per andare a bere queste persone fanno chilometri per bere, i poveretti in Etiopia, per bere un bambino per guadagnare 50 centesimi. Beh, quindi è normale che la gente scappi, questo ti sto dicendo. Bene. Allora, dunque, che dobbiamo fare? Circa la felicità, quando vengono faccio. E dunque, che facciamo? Accogliamo tutti quelli che hanno sete. Accogliamo tutti quelli che hanno sete. Diciamo. Parenzo che non capisce la mazza. No, ma facciamo così: tutti quelli che hanno sete nel mondo, prendiamoli tutti. Quando c'è stata la seconda guerra mondiale, tu lo sai quante persone sono scappate dall'Italia, dall'Europa, in America? Lo sa quando? Certo. Mi fate veramente ridere. Ma non lo so, milioni. 16 milioni di persone sono scappate. Certo. 16 milioni. Noi ne abbiamo ricevuto tutta l'Europa, solo 2 milioni, siamo dei poveretti. Renditi conto, Cruciani, ti faccio riflettere. Siamo dei poveretti. Marco da Roma, sì, tutti questi, c'ha ragione, le migrazioni, tutti questi discorsi. No, poi quando andiamo nel concreto, poi nel vediamo. Nel concreto c'è, ad esempio, intanto per disporre un mega piano del per un l'accoglienza. Un mega piano, Marco da Roma, il mega piano, Marco da Roma. Vai. Così si Marco chiama da Roma. Nel dettaglio, l'ONU, le cose. Sì, l'ONU niente, che dovrebbe allora scomparire. L'ONU che dovrebbe scomparire. Invece vogliamo dare incarichi ancora all'ONU, Marco da Roma. Ma dai, su, Marco, qualcosa va fatto. Marco da Roma, dai. E questo va fatto. Il mega piano per i migranti, Marco da Roma. Poi, una cosa che solo al sentire fa ridere. Il mega piano per i migranti. Un mega piano, come il mega direttore generale, il mega direttore del piano. Non è esattamente così, Marco da Roma, dai. Ma se l'ONU mette le cose, mette gli annunci sui giornali chiedendo i soldi ai milionari italiani. Oggi ho letto un annuncio dell'ONU che chiede i soldi ai milionari italiani per accogliere le famiglie, ma non si vergognano di chiedere i soldi agli italiani, anche fossero milionari. L'ONU, l'ufficio per i migranti, quello che era della Boldrini, no? Cioè chiede i soldi ai milionari italiani. L'ONU, che chiede soldi, in che senso? Mica era banca. Quello, vabbè, tutte le istituzioni, Marco da Roma, alle volte, ma dai, ma si vergognassero questo. Dai, l'ONU che chiede soldi, Marco da Roma. Dai, ciao Giuseppe, ciao Parenzo, mi sentite? Dimmi. Ti voglio bene. vi voglio bene, siete la mia compagnia di ogni sera. Vai, il raccordo anulare è una stradina, però volevo protestare con la proprietà. Voglio più zanzara e meno pubblicità. Sì, diciamo basta che la pubblicità. Con queste strozzate del traffico, della borsa, non frega niente a nessuno. A me lo dici? Cioè, solamente per fare pubblicità prima e dopo. A me lo dici? La traffico, traffico. Sì, ma questo non ti preoccupare, ci penso io. Traffico e borsa. Guarda, traffico e borsa andrebbero bombardati col napalm, per cui a me lo dici. Lascio una proposta, dateci il vostro IBAN, facciamo una colletta noi ascoltatori e sovvenzioniamo noi il tempo della pubblicità, così l'editoria ha lo stesso introito e noi sentiamo più zanzara. Vi voglio bene, Parenzo sei il mio mito, Giuseppe sei romano come me, ti voglio bene. Vabbè, questo che c'è. Io non ci ho avuto quella malattia che ci hai avuto tu della palla sinistra o destra. Mamma mia, però... epididimite, ti si gonfia un coglione, guarda, una cosa tremenda. Rilancio, c'è una cosa simile che non è patologica, però te la inducono, che ne so, la tua donna, il tuo collega, il tuo capo, si chiama orchite. È uguale, è la stessa cosa, è la stessa cosa. Vi voglio bene, propongo la sovvenzione a costo della pubblicità, aprite il vostro IBAN, vi sovvenzioniamo noi, siamo tanti, vogliamo meno pubblicità, meno traffico, meno borsa, vogliamo Parenzo e vogliamo Giuseppe. Grazie, ciao, ciao. Riccardo da Pescara, non l'abbiamo cercato noi questo, Riccardo da Pescara. Bravo, bravo. Buonasera, voglio dire due cose. La prima è che insomma non vedo l'ora che rinizi il programma della Gruber, perché Parenzo è l'altro commensale. Stasera, meno male. Stasera dalle 20:32. Sì, meno male. Adesso non fare pubblicità, non ce ne fotte una mazza a noi. Riccardo, dai. Sarà anche meno male. Ma non ce ne fotte nulla a noi di quello che fanno alle 20:32. Ma non me ne frega niente. Non rinizia la Gruber stasera, ci sta ancora lui. No, dai, su, ma chi se ne frega, Riccardo, dai, su, dai. Preferisci la Gruber a Parenzo, abbiamo capito, e chi se ne frega? Alle 20:32 c'è. Va benissimo. Dai, poi la seconda 32. Cosa è che fai l'ufficio stampa della 7 direttamente, no? Riccardo, vai. Può essere che sia un bel lavoro. Ecco, vai diretto, okay. Diretto. Posso essere interessante. Ma che aspetti, scusa, Riccardo? Niente, poi una seconda cosa, ma veramente una domanda credo abbastanza seria, cioè vorrei che qualcuno, anche voi, oppure qualche politico, anche Salvini che è intervenuto prima, adesso vabbè, insomma non c'è più, però vorrei che qualcuno mi spiegasse che fermo restando la necessità, vabbè, di accogliere gli immigrati e non ne possiamo fare a meno, quello è poco ma sicuro, ma poi che cosa ci facciamo con questi immigrati? Vabbè, li accogliamo, poi li dobbiamo anche mantenere, per quanto tempo li dobbiamo mantenere? Li dobbiamo trovare un lavoro, li dobbiamo trovare casa, li facciamo stare qua, li integriamo, che cosa, qual è poi insomma il passo successivo a quello del divento? Io questo non ho capito. Va bene, Antonio da Roma, vai Antonio. Pronto? Dimmi. A me sarebbe piaciuto sapere da Salvini la differenza tra un bambino che muore per la guerra e un bambino che muore per la fame. Sì, ma non fate questi discorsi pietosi, sono dei discorsi che ispirano solo pietà, quello è la chiesa, cioè vale a fare in chiesa, un bambino che muore è un bambino che muore comunque, non c'entra nulla, un bambino che muore è un bambino che muore, ma il discorso che faceva la settimana scorsa Luttwak qui, i migranti economici non possono entrare, oppure se riescono a entrare cazzi loro, i migranti, quelli che sono... scappano dalle guerre, se ovviamente è vero che scappano dalle guerre, ci sono delle leggi internazionali, leggi anche nostre, per cui li dobbiamo ospitarli, li dobbiamo mantenere qui, punto e basta. È evidente che un bambino che muore, se muore per la fame o muore per la guerra, non c'è differenza. Ecco appunto, allora perché non accogliere tutti? Sì, accogliamo tutti, ma chi se ne frega, apriamo tutte le frontiere, entrano tutti, chi se ne frega? Posso un attimino continuare? Mio nonno negli anni 20 è dovuto emigrare in Argentina. Ma non c'entra una mazza, nessuno. Sono situazioni diverse. Come quando Parenzo dice non mi paragonate quello che fa Israele nei confronti dei palestinesi. Giustamente. Mio nonno. Ho capito, giustamente noi quando dice aspetta un attimo, quando Parenzo dice c'è una differenza tra quello che succede con i migranti e quello che succede con i palestinesi, è giusto, perché sono situazioni diverse, lì c'è la guerra eccetera eccetera. Per il paragone tra l'emigrazione italiana degli anni 20, degli anni 30, degli anni 50 eccetera e quello che succede adesso, chi lo fa propaganda, è ridicolo, non c'entra assolutamente caro nulla. Luciani, la fame è fame, ma che vuol la dire la fame è tanto per un africano quando per un migrante che dalla Calabria non c'aveva che mangiare, è dovuto andare in Argentina. Mio padre, per poter lavorare, è dovuto andare a Milano. Beh, certo, nel dopoguerra. Vabbè, ma che c'è? Tuo padre dall'Italia è andato dentro l'Italia, è una migrazione interna. È una migrazione interna, quello è un altro discorso. Dai, non facciamo discorsi assurdi. Allora prendiamo il caso di mio nonno, che per farmi è andato in Argentina. Vabbè, d'accordo, ma è un'altra situazione, sono gli anni 20. Guarda che al nord, quando emigravano ad esempio dal sud, dalla Sicilia, per andare a lavorare alla Fiat, allora? A Torino, sì. Glielo puoi chiedere a tanti. Dunque, ma che, ma che paragoni fai con l'emigrazione italiana, italiana interna, e l'emigrazione che viene dalla Nigeria degli schiavisti? Sono, ma cosa c'entra? Sono numeri totalmente diversi. Ma non è che numeri, sono situazioni diverse. Sono proprio numeri diversi, ma alla base c'è che uno si sposta. Qui si spostano in massa e quindi il problema è mondiale. Uno si sposta, ma certo, questo è uguale. Certo, uno si sposta. Per emigrare si deve spostare, su questo non c'è dubbio. Siccome per molto tempo nessuno di questa roba qui, nessuno ne ha valutato l'impatto, dice vabbè un po' si spostano, chi se ne frega. Vabbè. In realtà quando il fatto è diventato come sì, questo, ma ragazzi qui non è il simposio di filosofia, scusate, non è il simposio sulle migrazioni, scusami, ma non è il simposio sulle migrazioni, cioè non capisci bene. Il problema qual è? Quelli si spostano. Sì. Perché si spostano? Tu dici rimaniamoli tutti quanti. Ma questo fa parte di un... Io non ho detto questo. E comunque io non... Vedi che già hai detto una cazzata. Io ho detto quelli che hanno diritto perché vengono dalle guerre, va benissimo. Gli altri no. Punto. Oppure quelli che servono sì. Gli altri no. Capito? Chiaro? Ve lo dico a voi due, d'amico. Fatevi i cazzi vostri. La Zanzara. Ragazzi, veramente siamo messi male, siamo alla frutta. Se non capite il mio pensiero, io... I sindaci se ne inventano di tutti i colori per cacciare le prostitute dal proprio territorio, senza capire, secondo me, che le prostitute sono in realtà una risorsa grandiosa. Bisognerebbe trasformare quelle prostitute in lavoratrici autonome, legalizzare la prostituzione, creare dei bordelli in ogni città. Questo sarebbe il, come dire, l'auspicio della Zanzara, mio auspicio, eccetera. Invece se ne inventano di tutti i colori per cacciarle da un territorio e quelle poi si spostano da un'altra parte. Allora, a Spino d'Adda, nel Cremasco, se non sbaglio, c'è un sindaco. Sì, c'è un sindaco che si chiama Paolo Riccaboni, che è in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera a loro. Come stai? Molto bene, grazie. Allora, scusi sindaco, lei di che partito è innanzitutto? Sono latamente di centrodestra. Come? Velatamente. Sono latamente. Ah, latamente. Sarà una civica. Latamente, cioè così un po' non proprio di Forza Italia né della Lega, o sbaglio? No. Centrodestra allargato. Centrodestra allargato. Iscritto tra... i miei compagni di viaggio, io personalmente non sono iscritto, ma me le conosco in tutto il centrodestra, in tutto ciò che non è PD fondamentalmente. Allora, lei si è inventato una cosa, cioè vuole imporre, sta cercando di imporre alle prostitute che gravitano intorno al suo territorio. Quante sono in tutto queste prostitute? Al momento siamo intorno alle 5-6 prostitute. Un problema enorme, 5-6 prostitute, immagino, no? O no? 5-6 prostitute, secondo me si possono anche tollerare 5-6 prostitute. Perché non ce ne sono di più, innanzitutto? Ma guardi, lei sentivo che prima faceva un auspicio, il suo auspicio non è diverso dal mio. Meno male, sono contento. Certo, ma vede, questo è quello che penso come uomo e come cittadino. Come sindaco invece rappresento un territorio, degli abitanti precisi, e quindi devo dare risposte alle istanze di quel territorio e di quei cittadini. E la risposta sarebbe il giubbotto catari frangente obbligatorio, no, sulle strade? No, perché questa è la seconda risposta. E la prima qual è? Già 4 anni fa fumo apripista, sì, con un'ordinanza che equiparava anche a sfruttamento della prostituzione e l'andare con una prostituta. Cioè, se io vado con una prostituta, sono sfruttato. Se lei si avvicina a una prostituta, sì, nel nostro comune, come in tutti i comuni limitrofi, perché, sì, tutti i comuni limitrofi adottarono la nostra medesima ordinanza, è passibile di una sanzione di 500 euro. E quante multe avete fatto per questa geniale trovata? Le multe possono essere combinate sia dalla polizia locale che da altre. Ma quante ne avete fatte vostre? Non lo so, non seguo direttamente. Come non sa il sindaco? Non sa quante multe sono state fatte per un'ordinanza che avete fatto? È strano, scusi. Certo che non lo so. Bah, non sa quante multe sono state fatte. Vabbè, cioè uno valuta anche l'efficacia. Io non so quanti divieti di sosta siano stati dati nel mio comune. Ma no, è un po' diverso, sindaco. Su, no, io so. È la stessa cosa. No, non sono sanzioni della polizia locale. D'accordo, ma se lei fa un'ordinanza per multare i clienti delle prostitute, per vedere anche l'efficacia di questo provvedimento, uno dice: ho fatto 20 multe, ho fatto 40 multe, ho fatto 10 multe. Lei non lo sa, va bene, d'accordo. Perché sì, no, le multe sono intorno alle 8-10 all'anno da parte nostra. Non però sono... io non ho capito, quelli che vanno a prostitute, secondo lei, dunque, sono dei miserabili, cioè sono degli sfruttatori della prostituzione? Non l'ho mai detto. Sono assimilabili a una norma che prevede lo sfruttamento della prostituzione. Cioè, ma lei veramente pensa che chi va a prostitute può essere assimilato a uno sfruttatore? Cioè, uno no, non lo penso, non ho detto di pensarlo. Io cerco strumenti. No, non lo penso. Io cerco strumenti legislativi che diano risposta al mio comune e ai miei cittadini. Ah, è una cosa ben diversa da un giudizio morale, no, giudizio o addirittura morale, da un'istanza legislativa di livello nazionale. Ma però scusi, se lei noi abbiamo un problema di prostituzione su strada, è un problema che i miei cittadini... Ce ne stanno 5-6, ce ne stanno. Che adesso problema? Sono diminuite in parte con la prima ordinanza, vogliamo andare verso lo zero e quindi ci impegniamo in tale direzione. Cioè lei vuole eliminare la prostituzione dal suo comune? Su strada, spostandola, esatto, ad un altro comune, tanto chi se ne frega o no? Non è tanto chi se ne frega, a me interessa tutto, ma in questo momento io rappresento il mio comune e devo dare risposte al mio comune, ai miei cittadini. Lei vuole fare sparire la prostituzione dal suo comune, poi se si spostano lei dice non è un problema mio, io rispondo ai miei cittadini, giusto? Questo lo dice lei, ma io devo rispondere ai miei cittadini. Io, no, ma questo che dico io... La potestà dell'ordinanza sindacale. Allora, i sindaci hanno questo strumento, tra altri, che è l'ordinanza sindacale, ma vale solo sul loro territorio. Punto. Questo non significa che io non debba dare risposta al mio territorio semplicemente perché il medesimo problema vi può essere su altri territori. Quello spetta allo Stato nazionale. Questo l'ho dare capito. Risposte compiute all'intero territorio nazionale spetta ad altri. Io devo dare risposta al mio territorio. Vabbè, il giubbotto cadere rifrangente invece come le è venuto in mente? Perché il giubbotto cadere rifrangente, tra l'altro so che alcune la vogliono mettere, altre no, leggo alcune, diciamo, le romene. Ma non so se lo può imporre però. Beh, sembra di sì, alcune l'hanno messo. Vedo e come fa a imporlo? E che ne so, me lo spieghi, sindaco? No, l'ordinanza sanziona chi non mette il giubbotto catena infrangente. Se staziona in generale, a bordo strada, a bordo strada, sulle due strade provinciali che attraversano il paese e ad alto traffico. No, le prostitute. Chiunque, a meno che non abbia la macchina in panne, certo, interviene il codice della strada. È un escamotage intelligente. Esatto. Io lo chiamo pensiero laterale. Come sindaco, come lo chiama? Pensiero laterale, come in altri campi. Ma com'è la storia? Giubbotto è un escamotage intelligente, bravo. Siamo a onore della cronaca per questa cosa piccolina. Abbiamo fatto di cose di cui siamo più orgogliose, seguendo esempi virtuosi e cercando di aggredire i problemi per come ci è concesso. Un attimo solo che c'è la pubblicità, poi torno da lei. Ciao Giuseppe, ciao Parenzo, mi sentite? Vi voglio bene, siete la mia compagnia di ogni sera. La Zanzara. Allora, abbiamo con noi il sindaco di Spino d'Adda, nella provincia di Cremona, Paolo Riccaboni, il quale per togliere le prostitute dal suo territorio si è inventato prima la multa ai clienti, un classico, 500 euro, paragonandoli a degli sfruttatori della prostituzione, in sostanza, con un escamotage, e poi il giubbotto caterifrangente, nonché i pantaloni luminescenti, com'è che si dice, sindaco? Dipende dagli orari per le prostitute, o sbaglio? Non sbaglia, dopo le 18 dopo le 18 bisogna mettersi pure i pantaloni, diciamo, luminosi. Andiamo verso l'inverno, i nostri sono paesi di nebbia e quindi aggiungiamo anche i pantaloni. Allora, io dico, ragazzi, però siamo seri, io capisco il sindaco, prima le sue ragioni, quello che ha detto, io rispondo alla mia comunità, in realtà vorrei anch'io le case chiuse, vorrei anch'io la legalizzazione della prostituzione, o sbaglio, però devo avere poi a che fare con l'ordine, con mettere a posto le cose sul mio territorio e devo utilizzare tutti gli espedienti possibili, insomma, per togliere queste prostitute dalle strade. Ora, io dico una cosa, sindaco, si può pensare però che... si è aperto anche un dibattito direi etnico, perché ci sono le nigeriane che lo indossano, sembra, rumene, quelle dell'est che non lo vogliono, cioè lei ha innescato una divisione, un contrasto, una guerra tra le prostitute di quella zona. No, direi proprio di Beh, come no, così sembra. No, assolutamente. Perché no, le rumene non vogliono innanzitutto? Non ho la più pallida idea. Dice, non so cosa fare, dipende da come mi gira la testa, e poi ci metto poco a mettere insieme 500 euro, diciamo, una se ne fotte totalmente. Perché se uno non mette queste cose là, viene beccato. Mettiamo una prostituta, no? Su una strada della sua città o nelle vicinanze, che viene beccata senza il giubbino, senza i panni. Urtata sarà. Beh, quanto becca? Anche là 500 euro? 500. E se quella non vuole pagare subito? Non paga mai subito. Non paga mai subito, appunto. Quando non pagherà paga? Mai. Arrivederci, perché? Grazie. Non pagherà nessuno mai. Nessuno paga subito. Ma nessuno pagherà mai, poi la realtà è questa. Cioè, perché... Ma le sanzioni della precedente ordinanza vengono tutte pagate. Ma non dalle prostitute, magari dai clienti per non avere grane. Lo ma... vedremo, ci possiamo risentire tra qualche mese, le dirò. Ma insomma, che... io capisco anche la volontà di fare notizia, per dare il giubbotto cata rifrangiamo, ma si può pensare che una povera prostituta non debba mettere in mostra la sua mercanzia? Perché quello è il problema, cioè bisogna mettere in mostra la mercanzia, lei lo sa. Dunque è chiaro che queste qua prima o poi spariranno. Speriamo. Speriamo, lei dice, no? Quello è il suo obiettivo, c'è ragione. Cioè, l'obiettivo è questo. Cioè l'obiettivo è quello di metterle, di vestirle. Se io le abbasso, come lei dice, se abbassiamo la saracinesca, difficilmente il negozio vende, poi vediamo se vende online o in qualche altro modo, però vediamo se quantomeno il negozio non è più evidente, questo con ulteriore vantaggio dei cittadini, delle famiglie, dei figli. Beh, magari famiglie. Non dei maschi però, non degli uomini. Magari c'è qualche cittadino della sua città che vuole andare a Troie. Magari ci sono, vanno in altri comuni già adesso perché sanno dell'altra ordinanza. Però sindaco, mi scusi, ma lei come considera uno che vuole andare a prostitute? Non formulo mai giudizi. Vabbè, ma avrà un suo giudizio, no? Cioè, le sembra una cosa normale andare a prostitute? Le sembra un peccato? Le sembra una zozzeria? Le sembra uno sfruttamento, uno sfruttamento dello schiavismo, come dice Parenzo? Le sembra una cosa brutta, cattiva da non fare? Io penso che la prostituzione su strada sia assimilabile al commercio di schiavi, perché certo. Normalmente è legata a fenomeni malavitosi e di sfruttamento. Quella in casa, nel caso fosse normata dallo Stato, prevederebbe, come sappiamo, controlli igienico-sanitari, fiscali, finanziari, e più difficilmente ci sarebbe sfruttamento di testa. Ma lei è mai andato? Ma mi aspettavo questa domanda prima o poi. No, vabbè, me l'ho fatta alla fine. Io non formulo un giudizio morale su un altro, vengo a raccontarle i fatti miei. Ma no, ma che c'entra? Ma siccome lei fa questa ordinanza, magari ha un'esperienza diretta di quando era ragazzino. Io parlo come sindaco, che è un ruolo ben preciso. Lei non mi ha chiamato perché sono un uomo o una persona, mi ha chiamato perché come sindaco ho fatto un atto e vuol parlare di quello. Quella che è la mia vita è tutt'altro e poco interesse per lei. No, interessa molto i cittadini invece. Interessa molto i cittadini se le persone fanno come lei sa. Ci sono predicatori, non è il suo caso, in America sono stati scoperti attraverso la divulgazione di alcuni dati, poi si può discutere alcuni dati personali, sono stati scoperti molti predicatori religiosi che dicevano certe cose dal palco e in realtà poi avevano doppie, triple o quadruple vite, capito? Fortunatamente non ho un palco e come ho detto prima non formulo giudizi su nessuno. No, però le questioni che riguardano la vita privata sono molto importanti per la vita pubblica, molto importanti. Poi naturalmente non pretendevo una risposta esauriente, so benissimo che lei avrebbe risposto no, figuriamoci, non sono mai andato, oppure sono affari miei. Però le cose che riguardano la vita privata di chi amministra sono molto molto importanti, non è una cosa che non riguarda gli atti pubblici o non riguarda Ma questo è discusso da lunghissimo tempo, ci sono stati grandissimi amministratori con una pessima vita privata e viceversa, no, uomini integerrimi incapaci di amministrare, quindi davvero la cosa non ha una corrispondenza di univoca. È chiaro che qualora venisse fuori che lei ne è stato un frequentatore, come dire, verrebbe giudicato anche per quello. Questo è normale, no? Ma certo, è per questo che uno chiede le cose. Un amico ha chiesto se lei certo, attualmente. Certo. Ma infatti la cosa non mi scompone. Però ripeto, non ha alcuna attinenza col fatto di emanare un'ordinanza. Come no? Con un ruolo in qualità di sindaco, assolutamente nessuna. Invece ha molta attinenza, ma la saluto. Arrivederci. Grazie. Arrivederla. Arrivederci. Allora, Alessandro da Firenze, vai Alessandro. Buonasera Cruciani. Ciao, dimmi caro, dimmi. Mi duole contraddirti. Dimmi. Ma l'infezione dell'epididimo. Sì. Io, diciamo, sono un urologo per hobby. Sì. Ero urologo, adesso sono amministrativo. Ma che vuol dire urologo? Non è che uno è urologo per hobby, o è un urologo oppure no, cioè non è che sono urologo per hobby. Spero che nessuno si sia fatto visitare da lei quando era urologo per hobby. Cioè, Ero urologo, adesso non esercito più la professione medica, diciamo sono amministrativo e politico. Insomma. Vabbè, ma non è interessante. Si è specializzato, no, come non è molto interessante, tutto è interessante. Non è che uno decide, è interessante o non è interessante, cioè, a parte che qui decidiamo noi quello che è interessante o meno. Vabbè, allora l'epididimo si infetta per una gamma di coli patogeni, tra cui le Escherichia coli, gli enterococchi fecali. Vabbè, adesso... e questi entrano nell'uretra del maschio. Sì. Se si tratta di un bambino, se si tratta di un anziano incontinente, ma se parliamo di un adulto in piena attività sessuale, l'ipotesi, l'eziologia a cui subito il medico pensa è l'uso improprio, come diceva Parenzo. No, ragazzi, guardate, quando mi sono fatto come si diceva. Com'è che si dice, Alessandro? Non ho capito. Si diceva per vas nefandum. Sì. Allora, quando mi hanno per cose nefande, diciamo, no? Questo è il punto. Per vas nefandum, diciamo per il canale ignobile. Sì, però il punto fondamentale è un altro, Alessandro, che quando mi sono fatto visitare il testicolo per l'epididimite, la certezza assoluta da parte dei signori medici, che Dio li benedica, è che non era una situazione provocata da trasmissione sessuale, cioè... perché probabilmente era un patogeno che non era un enterococco fecale, diciamo. Però ricordiamo agli adulti in attività che il coito more ferrarum, cioè la sodomia, espone invece al rischio di infezioni da coli patogeni, ed è una cosa abbastanza consueta. Però dipende, la sodomia senza protezione, naturalmente, lei dice. Senza protezione, però devo dirle che i coli patogeni sono molto più resistenti che non i comuni patogeni associati alle malattie a trasmissione sessuale. Però ci faccio capire, perché noi qui non è una... c'è un simposio di medicina. Non è chiaro a te, a me no. Insomma, espone a qualche rischio, non grave, perché sono tutte patologie che si curano con degli antibiotici, però diciamo mi dica la verità, Alessandro, mi può tornare questa epididimite, cioè l'ingrossamento del testicolo? Dipende dall'uso che fa del suo, diciamo, attrezzo e dall'igiene soprattutto della partner. Ma no, ma non c'entra niente l'attività sessuale. Ma ragazzi, vabbè, apriamo questo grande dibattito. Tu hai introdotto il tema, mica lui. Io ho introdotto il tema, certo, ma a me hanno detto che l'attività sessuale non c'entra assolutamente nulla. Per non spaventarti. Ma no, ma che per non spaventarmi? Dai, su, comunque io voglio aprire un grande dibattito qui a questo punto, un grande dibattito tra urologi e specialisti che devono dirmi se l'epididimite, cioè l'orchite, ha a che fare con il rapporto sessuale, perché questo mi farebbe preoccupare anziché no, come si dice, mi farebbe preoccupare moltissimo. Daniel da Roma, dai. Pronto? Dai, dimmi. Sì, buonasera signor Cruciani, saluto anche Parenzo. Allora, io vengo dalla Romania, no? Sono di origine ebrea, sono 15 anni che sto qui a Roma. Sì. E vorrei dare un'idea sulle prostitute rumene, no? Sì. Perché non fate le multe, le mandate al comune di provenienza Romania? Perché tutte quante che battono qui sulla strada, quando arrivano a Romania dicono che fanno la badante o lavorano dentro all'hotel o dentro al ristorante, invece stanno tutte qua per strada. Ma scusa, ma perché bisogna fare le multe? E che il risultato qual è? Uno fa le multe, le manda posto che quella abbia il documento. È lì se devi fare un documento al comune, non lo puoi fare finché non paghi tutto quello che devi dare. le vabbè, multe, ma chi tutto se ne frega, quanto. Ma chi se ne frega? Ma perché bisogna multare queste povere prostitute per strada? Che già in alcuni casi sono pure sfruttate, in più facciamo pure le multe. Ma perché, ma è tutto allora, ridicolo, perché dai. Io sono nato in Romania, e Romania è un grande paese con delle grandi persone. E mi rode quando sento ogni volta la radio in televisione che tutte le rumene sono delle prostitute. Ma non è vero che tutte sono prostitute, alcune sono prostitute, come ci sono le bulgare, come ci sono le moldave, come ci sono le. Io ho capito, ma ogni volta si parla solo dei rumene. Allora fate le multe, mandatele giù in Romania al comune, così pure il comune lo sa quello che fanno loro qui in Italia. E beh, allora? E ve fate pagare. Scusa, Cioè un'altra cosa sull'Ungheria, sì. L'Ungheria, vorrei dire una cosa su. Aspetta, fermo lì. Ma quest'anima, tu sei fuori di testa. La Zanzara. Che può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? Ragazzi, qui raggiungiamo veramente il top, Ascoltate cosa accade in una trasmissione qui su Radio 24. La trasmissione è Chiedimi se sono felice. Intervenuto a un certo punto un signore che si chiama Contri, che credo che sia un medico, un veterinario, non so chi, uno psicologo, non so chi, non lo voglio sapere, che dice di aver fatto, Parenzo, ti assicuro, telepatia con un cane morto da 8 anni. No. Sì. Beh, c'è questo signore che si chiama Contri, che ragiona, parla con un ascoltatore. Ma l'ha invitato, scusi. E dice di aver fatto telepatia con un cane morto da 8 anni. Beh, vabbè. A me quello che è rimasto colpito era proprio il messaggio che ti aveva dato sulle foglie secche. Non so se ti ricordi. Partivo per la mattinata di caccia con lui, mi fermavo a pranzo, condividevo con lui il mio panino e lo facevamo sotto un albero di quercia dove c'era un sacco di foglie secche. Insomma, vivevo un po' la caccia da poeta, se così si può intendere. Senti Andrea, ti posso chiedere, se vuoi non rispondere, come mai ex cacciatore? Ex cacciatore perché la cosa strana, oltretutto, è che quando ho fatto vedere la foto di Kaiser ad Andrea, Kaiser era morto da 8 anni. Cioè, quindi no, lui è riuscito a fare telepatia con un cane che non c'era già più? Assolutamente. Straordinario. Tutti possiamo essere telepati con gli animali, tutti possiamo fare telepatia con gli animali. Cioè possiamo mettere in contatto con gli animali morti. Sono convinto che non sia un dono, no. Cioè la telepatia è un'abilità che abbiamo tutti dentro di noi, deve essere solo risvegliata. Qualsiasi bambino che non ha ancora avuto i preconcetti della società comunica, e quindi non stoppate i vostri bambini quando vi dicono il gatto mi sta dicendo quello nella sua fantasia, certo. Ma sta comunicando con il gatto. Ah, anche quelli vivi oltre a quelli morti, eh? Cioè quelli morti e quelli vivi. Ma questo è straordinario. No, ma è tutto bellissimo. È tutto. Ma è un mito questo qui. È un mondo meraviglioso. E a un certo punto interviene uno che dice: il mio cane ha parlato con non so con chi, senti. Andrea si è messo in contatto col mio cane e ha dissipato ogni mio dubbio sulla comunicazione animale, perché ovviamente all'inizio ero un po' scettica, però lui ha dissipato i miei dubbi perché comunque il mio cane, che si chiama Eddie, gli ha detto dei particolari della mia vita che Andrea non poteva sapere. Capito? Il cane ha detto dei particolari. Ma questo è stupefacente. Però. Gli ha detto che vuole andare in Corsica. Ma se due persone tra di loro non si conoscono. Cioè, se qualcuno ci guadagna da tutte queste cose, è un genio. Cioè, se qualcuno ci guadagna da tutte queste puttanate che riguardano la telepatia con gli animali, mettersi in contatto con gli animali, parlare con gli animali, vivi o morti che siano, se qualcuno guadagna da queste storie, voglio incoronarlo come genio assoluto. Perché sì, sicuramente c'è qualcuno che ci guadagna. Pare che qualcuno si fa dare 80 euro a seduta per parlare con gli animali morti, una cosa del genere, o per mettere in contatto l'ex padrone con l'animale morto. Ah, scusate, mi sono detto padrone, l'ex amico con l'animale morto. Ci guadagna pure, capito? Sono dei geni assoluti, come quelli che vanno da quelle dei tarocchi, no? Dalle maghe, come quelle che vanno dalle Marchi, no? Uguale, la stessa cosa. Che cambia? Scusa, credere di potersi mettere in contatto con un animale morto, oppure pensare che puoi guarire col malocchio non so da che cosa attraverso il sale di Vanna Marchi, che differenza c'è? Dai. No, ma lì c'erano ma anche uguale. Le minacce, le cose. Ma è uguale, senti questa cosa della Corsica, dai, su, ma che c'entra? L'anno scorso, cioè la scorsa estate, con una mia amica, la mia migliore amica, che anche lei ha un cane, con lei passeggiando con i nostri cani dicevo: dai, quest'altro anno, cioè questa estate del 2015, andiamo in Corsica, che mi hanno detto che sono molto accoglienti coi cani. Sì. Quindi ne parlavo con lei, ma non l'ho detto a nessun altro. Uh-huh. E Andrea, comunicando con Eddie gli avrebbe detto: sì, la Corsica va bene, voglio andare al mare. Ma dai, su, ma ragazzi, ma è un mondo meraviglioso. Corsica va bene. Ma dai, su. Il traffico è il problema. La Zanzara. Prenda atto che ormai è tutto finito. Sì, ragazzi, se qualcuno guadagna dal fatto di parlare con gli animali morti, cani, gatti che siano, questo è il dato incredibile. È un genio assoluto. Trattasi di genialità. Vivi, però fossero vivi, già uno potrebbe. Io non ci credo. Cani vivi, no, dai, parlare con i cani, dai, no, su, ma di che parliamo? Però, dai. La cosa singolare, c'è il cane vivo, io conosco il canile. Sì, uno si cani. Può affezionare, conosco il linguaggio, quello che no, vogliono i cani. Posso capirlo dall'occhio, quello posso anche provare a comprenderlo, no? Sì, ma i cani morti, dai. Ecco, questo è un po' più. Mettersi capisci? In contatto telepaticamente con i cani morti. No, ma prova a immaginare uno che si mette in contatto ad esempio con i gatti nel surgelatore, perché non è che io mi sono dimenticato di questo, ad esempio. Non credere che siccome è passata una settimana io mi sono dimenticato della presenza dei gatti in un congelatore. Cioè, quanti gatti ci saranno adesso nei congelatori d'Italia, per esempio? Ecco, no, ma come si fa a mettersi in contatto ad esempio con i gatti nel congelatore? Perché anche lì è curioso, ad esempio, che è morto. Vabbè, quello è lo spirito, però l'anima, non è che ti metti in contatto. È stato l'anima congelata. Vabbè, ho capito, però è l'anima, ti metti in contatto con l'anima. Ah, ho capito. Allora, io tra l'altro, a proposito di animali, voglio, non dico difendere perché non me ne frega niente di difendere, vi ricordate il famoso dentista americano che era stato praticamente considerato una specie di bestia, un reietto dalla società, semplicemente perché aveva sparato e ucciso, anzi no, aveva colpito con una freccia un leone Cecil, credo nello Zimbabwe. Bene, si è scoperto adesso, perché questo qua dopo un mese che è stato braccato in tutto il mondo, tornerà tranquillamente a lavorare, perché si è scoperto in realtà che ha fatto qualcosa di perfettamente legale. Non è lui che ha sbagliato. Se avesse saputo, ha detto in un'intervista, che quel leone era così famoso, non l'avrebbe colpito. Non è vero che è stato finito dopo 40 ore in cui quel leone ha vagato in tutta la savana, eccetera. No, è stato finito con una freccia dopo. Insomma, ha fatto delle cose che erano previste, esattamente previste dal protocollo, dall'accordo tra lui e quell'azienda, quella società che gli ha permesso di cacciare nello Zimbabwe i leoni. Qualcuno ha commesso degli errori, ma non lui. Il leone Cecil, pure Obama parlò del leone Cecil, no? Poi si è scoperto che questo signor cacciatore, questo dentista che caccia i leoni, uno può giudicare una cosa obbrobriosa, cacciare i leoni, le zebre, i rinoceronti, eccetera, era perfettamente in regola. Tant'è che torna al lavoro adesso senza nulla. Allora, Mirko da Genova, vai. No, eravamo con Daniel, sì, vabbè, Daniel da Roma, è rumeno, vuole mandare le multe alle prostitute rumene, non si capisce perché. Daniel, vuoi salvare l'onore della Romania? Vabbè, chi se ne frega però. Pronto? Sì, ma chi se ne frega? Vuoi salvare l'onore della Romania? No, non è solo per l'onore, è perché, allora, c'ha ragione il sindaco che dice... Ma che c'ha ragione, tutti espedienti assurdi, sì, le multe ai clienti, rovina, i giubbotti cadono, i frangenti... Io abito a Roma... Tutte le strade dove giri è pieno di prostitute, no? Allora o fanno le case chiuse come tu hai proposto tante volte e io sono d'accordo, o se no in qualche modo sta roba qua, a parte la monnezza, le mignotte, tutto quanto, dalla strada devono sparire. Perché questa è una grande città. Ma non è che spariscono, spariscono così per grazia ricevuta o per i giubbotti cadari frangenti oppure per le multe ai clienti. Beh, che è un'altra regolaggio. Però chiaramente le dissuade magari a lungo periodo. Ma chi va a controllare? Ma ti pare che uno come dire spreca l'attività della polizia municipale o della polizia per controllare se una mignotta, una puttana per strada, una prostituta, e lo dico senza come dire senza nessuna accezione negativa, abbia il giubbotto catari frangente? Ma ti rendi conto a che cosa è costretta la polizia municipale? Deve controllare se una nigeriana, se una rumena ha il giubbotto catari frangente per strada, o i leggings, o non so, i pantaloni che si illuminano, se no altrimenti si deve fermare e fare 500 euro di multa. Ma è un'umiliazione nei confronti della polizia stradale o della polizia municipale. Ma perché una cosa è un'umiliazione? Ma in fondo è un provvedimento su, che vale per tutti, come ti ha detto lui, no? Cioè, tutti fermi con la macchina, e hai l'obbligo in quel comune. Sì, è un espediente, dai, su, Mirko, Genova, dai. È un espediente, certo. Ma Mirko, dai. Ciao a tutti, fateli trombare, dico, senza avere disturbi da multe, perché l'imbarazzo più grande c'era il cliente, poi non c'era il vigile oltretutto. Mi sembra assurdo quello che sostiene questo sindaco, mi sembra una cazzata fuori tempo, bigotta e antica. Ma è questione di bigottismo, è questione di... A parte uno si vuole fare un po' di pubblicità e va bene, d'accordo. Ma mettere il giubbotto catari frangente per mandare via 5-6 prostitute. Sono 5-6, non c'è l'invasione. Sono 5-6 signorine che... Perché farà 10-15 mila abitanti questo paese. Ma sì, 5-6, capito? 5-6 ci vuole mettere il giubbotto catari frangente, così quelle si spostano da una strada all'altra e non cambia niente. Ma dai, una cosa patente. Scusa Cruciani, ma il testicolo telepatico esiste secondo te? Che vuol dire il testicolo telepatico? No, parlavamo dei cani, dei zapatini dei cani, no? Il testicolo telepatico, cioè, con chi vuoi parlare? Perché col testicolo? Devo passare un messaggio, che c'è qualcosa che non va bene, fai persone che frequenti, questo. No. Ridevo, una battuta. Ciao, sì, Matteo, no. Milano, vai. Ciao Giuseppe. Ciao. Senti, volevo rassicurarti sul fatto che l'EPD di Mite può tranquillamente venire in assenza totale di rapporti sessuali. Ma sì, ma io, certo, poi può darsi pure che ci sia... Sì, esatto, può darsi, io sono stato affetto l'anno scorso, un male porco, un coglione grosso come un melone, paura eccetera, sono visitato a San Raffaele di Milano e mi hanno detto che la causa, che è poi la causa principale, non è che altro che un reflusso dell'urina, e quindi mi hanno fatto fare i test sul flusso dell'urina, ma niente che avesse a che vedere con scopate, malattie sessuali. Ma quant'altro. Che succedeva? Cioè ti toccavi e sentivi questo coglione? No, io sono un coglione grosso come un melone, non riuscivo quasi a camminare, quindi sono da farmi visitare. Beh, io questo francamente no, io mi ricordo, mi ricordo, è successo qualche poco tempo fa, cioè mi si è ingrossato un testicolo, lo toccavo e mi facevo un male cane, però in realtà non era grosso come un melone questo testicolo, capito? No, come una palla da tennis, però faceva molto male, quindi ovviamente dottor Ti sei preoccupato come un pazzo? Beh, sì, come un pazzo. Pensavi di avere un tumore al testicolo. Tumore. La morte era vicinissima. Sì, ti sei visto già praticamente dentro la tomba. Beh, esatto. Mi sono recato a San Raffaele ormai veramente già per l'estrema unzione, più che per una ecografia. Ma più o meno quello che è successo a me. Mi sono consegnato ai medici, ditemi quello che ho. Tanto so che è una cosa gravissima. Esatto, mi hanno toccato bene le palle. Mi hanno visto in faccia, mi hanno fatto degli esami e ho detto guardi, si tratta di una cosa molto comune che si chiama orchidea epididimite, e di epididimite con la T hanno ragione gli ascoltatori, e vabbè, insomma, succede, dovresti stare a riposo. Ho fatto guardi, non posso perché vado in motorino, vado alla radio, che faccio? Deve stare a casa il più possibile, si deve stendere sul divano steso, immobile, fermo, e dopo 10 giorni questo coglione si è sgonfiato, per fortuna. Ma guarda, esattamente così, poi a me quello che mi hanno visto, si vedeva, mi hanno visto anche un po' vecchio, grasso così, quarantenne ormai, e mi hanno detto guarda, non c'hanno neanche pensato alla malattia sessuale, mi hanno detto subito sarà avuto un reflusso di urina, proprio non hanno neanche preso in considerazione che fosse di bene, grande discussione oggi, grande discussione, grande tema. Molto contento perché è un tema di grandissima attualità, altro che Renzi, le cose, Salvini, gli immigrati. Roberto da Piacenza, vai Roberto. Eccomi qua. Vai Roberto, che succede? Dimmi. Succede che sono 31 anni che io soffro di epididimite. Siamo veramente al top. Siamo al top, veramente. 31 anni. Ma come fai con i coglioni grossi da 31 anni? Hai le palle grosse da 31 anni? Ogni tanto. Io dice no, 61 all'anagrafe e 40. Aspetta, mi racconti tutto dopo la borsa. Ancora ci abbiamo la borsa, che dobbiamo fare? Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere i coglioni. La Zanzara. Yeah. I'm in love. succede che sono 31 anni che io soffro di epididimite, che cazzo, non lo so. Siamo al top, veramente, 31 anni. Adesso lo interpello questo qua da 31 anni con l'orchideo epididimite, Roberto da Piacenza. Però grande protagonista della passata settimana, della scorsa settimana della Zanzara, caro Parenzo, il figlio di Telese, Enrico Telese, figlio, certo, figlio di Luca Telese e di Laura Berlinguer. Molto carino. Il quale, ma non c'entra una mazza in questo caso essere carino o non carini, perché in realtà che cosa ha detto Enrico Telese, fantastico protagonista, in futuro credo co-conduttore o addirittura protagonista, beh, della Zanzara. Stupendo. E che stupendo. Non ci vuole il fucile a pompa. Il fucile a pompa, ma il Kalashnikov, non mi ricordo di cosa si parlava, però in realtà col fucile a pompa. Ma è un militarista il figlio. No, si parlava di qualche fatto, di qualche. Ah sì, del cacciatore di orsi, quel cacciatore diciamo illegale di orsi in Albania, che ci ha telefonato la settimana scorsa e ci ha illuminato su cosa accade nei boschi albanesi. Ci sono alcuni cacciatori, ripeto, illegali italiani che vanno a caccia di orsi in Albania. Tutto questo era stato ascoltato alla radio dal figlio di Luca Telese, Enrico Telese, il quale uno dice, beh sì... Il quale ha 10 anni, 11 anni... No, 9 anni, ovviamente a 9 anni uno dice ammazzano un orso, no, ma oddio, no, resti un po' colpito per il fatto che ammazzano un orso, e invece... Passami Enrico, dai. È vero che sei arrabbiato con quel signore che spara gli orsi, dillo... Non è incazzato! Oh! Ma spiegami, perché ti ha colpito tanto quel racconto, Enrico? Passami sto figlio, dai. Perché mi sembra strano che illegalmente arriva un tizio con il fucile a pompa, lo punta un orso di 3,5 metri, cose così, insomma. Cioè, come ti sembra strano? Ti è sembrato tu falso, dici? Mi sembra ingiusto. No, poi, ma... dimmi, col fucile a pompa direi che non è l'arma ideale, anche se già è una cosa cretina. Io ci andrei col Kalashnikov. Io ci andrei con il Kalashnikov. Adesso per difendere il figlio, ma dice un'altra cosa il pargolo, dai. No, ma ha detto quella cosa. È assurdo. Ma no. Sì, va bene, adesso non lo so, ma la cosa straordinaria, ha detto, io non andrei col fucile a pompa, ci andrei direttamente con il Kalashnikov. Ma lui non ci andrebbe perché è un bambino che non usa. No, ma no, ma che caso strano, ma che cosa strana che hai detto, che cosa originale che no, hai detto. No, che non è un bambino. Ma certo che non ci va, ma che ha detto io ci andrei col Kalashnikov, non col fucile a pompa. No, perché gli sembrava strano un'arma impropria, capito? Cioè non è non ha pensato, cioè a 9 anni ha distinto, ha fatto una distinzione tra fucile a pompa e Kalashnikov, e questa è la cosa incredibile. Beh, cioè, sì, certo, è numero uno assoluto, cioè un militarista convinto, altro che Enrico Berlinguer, la pace, strano, le cose, strano, la sinistra, che gli frega questo? Questo va col Kalashnikov a ammazzare gli orsi, ci deve andare col Kalashnikov. Parte che ha detto una parolaccia, ha detto sono incazzato. Perché avrà sentito la radio. Ma scusa, no, ma che cazzo dici? Cioè, ma era lì che ma è a scuola, sente ogni 3 secondi le parolacce. Ma no, che dici? Ma era anche lì e sentiva. Ma la quando radio, mai? No? Ma uno usa le parole a prescindere dalla radio. Era vicino all'ottimo padre, scusa. Non c'entra niente. No. E secondo il film. Fucile a pompa a 7 colpi. Ma che fai? È un esperto di armi eccezionale. Col fucile a pompa, che ce fai? È meglio che Kalashnikov. Ti piacerebbe andare a caccia, Enrico? Non molto. Non molto. Cioè, quel racconto lì ti ha fatto schifo perché moriva un orso o semplicemente perché non era credibile? Anche perché c'è chi lo fa per mangiarli, ha ragione. E c'è chi lo fa per divertimento da stronzo. Vabbè, insomma. Allora, ha detto stronzo, sono incazzato, il fucile a pompa a 7 colpi, andare a caccia per mangiare va bene, per divertimento no. Ah, vedi? No, beh, questo... Ah sì, vabbè, d'accordo. Mi ha colpito che sto qui illegalmente col fucile a pompa, si addentra... che ne so, nella giungla a caccia di orso, e quando si trova davanti un bestione di 3,44 metri, fa, oh mio Dio, questo è bello grosso. Allora, Roberto da Piacenza soffre di epididimite da circa 30 anni, da quello che ci ha raccontato prima. Cosa significa? Che c'hai continuamente i coglioni gonfi, Roberto, quello in tutti i sensi. No, i coglioni gonfi in tutti i sensi, però ogni tanto, ogni due o tre anni mi viene. Tu mi stai facendo preoccupare, sì. Però, amico mio. No, sei morto tu, ogni tanto viene, ogni tanto viene, però è dal 2009 che non mi viene. Ti voglio dire però una cosa. Dimmi. La prima volta che ci sono andato mi hanno detto, non si sa perché, probabilmente l'alimentazione, mi hanno messo una crema che si chiama Itiolo, una puzza incredibile di Catrano, una cosa assurda. Poi il mio urologo, che è un amico, sì, mi ha detto è la classica malattia degli scopatori. Aspetta, gli ho detto questo mi sta a pigliare per il culo, no, ovviamente, perché è un amico che ha fatto il liceo con me, io non mi sono fidato, sono andato da un altro urologo che mi ha detto non necessariamente dipende dall'attività sessuale. Ma da che dipende? Allora ditemelo voi, da che dipende? Vi prego. Probabilmente dall'alimentazione, da una ma cosa no, del genere. Ma no, è un'infezione. E questo qua mi ha fatto un ragionamento che mi ha lasciato basito. Mi ha detto questo, ascolta, dimmi. Ma tu quando scopi, vuoi soddisfare la donna o vuoi soddisfare te stessa? Ma veramente io vorrei soddisfare la donna e soddisfare anche tutte e due, gli hai detto tu, no? Tutte e due, certo. Regolare. Lui mi ha detto, ascolta, quando ti senti di venire vieni, sbattiti nei coglioni perché altrimenti c'è congestione. Beh, attenzione, qui siamo al top assoluto, qui siamo al top assoluto. Questo è il consiglio di un medico, un urologo a Roberto da Piacenza che ha sofferto e soffre di epididimite, cioè orchite, sì, da 30 anni. Ogni tanto ti si gonfia un coglione. Allora, quello che ti ha detto, ma per guarire, ma non capisco se te l'ha detto per guarire o no. No, mi ha detto è la verità, io sono rimasto così, te l'ho guardato in faccia e lui mi ha dato anche un altro consiglio, cioè? Se lei, ma te lo giuro, mi ha detto questo, se lei si dimostra un pochettino insoddisfatta di questa tua eiaculatio precox, tu gli devi dire, sono talmente innamorato, sei talmente eccitante che non ce l'ho potuta fare. Hai capito? Ma questo qua perché te lo diceva? Perché è meglio così. Perché veramente congestione. Cioè, perché resistere è peggio. Resistere è una tragedia, mi ha detto. Perché cioè, fa male fisicamente. Fa male fisicamente. Congestiona la prostata e il canale dell'epididimo da cui passa lo sperma. Non mi dire queste cose, dai, sono cose drammatiche. Parenzo, tu che cosa fai? Spiegami una cosa, tu resisti oppure vai di getto? Così? No, io non ho mai avuto questi problemi. No, d'accordo, però sta dicendo l'ascoltatore una cosa fondamentale che riguarda gli uomini, ma anche direttamente le donne. Cioè, sta dicendo, Roberto, che un medico gli ha detto, guarda, se tu ritardi apposta... Io non ho mai avuto di questi tempi ritardi, per ora... Beh, poi ti sarai trattenuto, ti trattieni ogni tanto, ti trattieni. Sì, però non c'ho problemi di questo tipo. Ma non sono problemi, non sono problemi. Calcoli di orari, di tempi. No, non mi pare almeno. Non è, però. Tu è tutto regolare, cioè non, tutto con i tuoi tempi, cioè non devi resistere. Questo sta dicendo una cosa che accade al 99% degli uomini, per cui non può non accadere anche a te. Sì, ma potrà essere accaduto. Sì, mi sarà accaduto. Lui sta dicendo, Roberto sta dicendo. Non ha avuto quegli effetti che ha avuto sulla vostra vabbè, salute. Ma ma io non so da che cosa dipende questa mia epididimite. Questo sì. Roberto, tu mi stai dicendo che ritardare l'orgasmo, di quello che può provocare, questo è chiaro. Può provocare una congestione, no? Io giusto? Poi sono andato nel tempo da altri urologi e comunque mi hanno garantito che ritardare l'orgasmo provoca una congestione soprattutto alla prostata e quindi al canale epididimale dove passa lo sperma, che può far ingrossare la prostata, può creare delle infezioni che non vanno bene. Adesso, ma può creare anche l'epididimite o no? No, assolutamente sì, a me è rimasto un piccolo nodulo. Ragazzi, un piccolo nodulo. Però adesso questo è il punto centrale. Il punto centrale non mi capita questo, più. Sì, il punto centrale il problema è che non mi capita più. Vorrei ragazzi, io veramente questa, io penso. No, perché vuoi che ti capita? Perché vuoi che perché, ti capita? Perché adesso posso stare lì mezz'ora e non vengo mai. Quindi e perché? Perché? Perché l'abitudine mentale. Ti sei consultato? Mi sono fatto condizionare. Allora bisogna giocare un pochettino in difesa, bisogna scendere, rientrare, andare così. Così, dai. È una cosa così. È fantastico comunque. Roberto, grazie per mi hai messo di cattivo umore con questa cosa. No, ti ho messo di cattivo umore perché vai per i massimi. No, Roberto, perché effettivamente io ritardo molto, capito? capito? Cioè... È una cazzata spaventosa. È una cazzata, è una cazzata spaventosa. Tu gli dici, sei eccitante, non posso resistere. E vabbè, ho capito, però quella magari cioè, vuole che uno... Che cazzo te ne frega, ho mica capito. Parenza, a te interessa il piacere della donna? Beh, direi, quello certamente. È fondamentale, dici, no? Vabbè, Federica da Roma, dai, Federica, dimmi cara. Ciao. Probabilmente sono troppo giovane per questo programma e questo mi mette già abbastanza ansia. No, io volevo no, parlare perché del... è troppo giovane? Quanti anni hai? Scusa, che 23. C'entra? E perché è giovane? È stupendo, è meraviglioso, è fantastico tutto ciò. Volevo intervenire riguardo all'argomento. Però aspetta, volevo restare su questa cosa qua. Scusami, perché dici di essere troppo giovane? Ma vi accorgo comunque, ascolto sempre questa trasmissione quando torno dal parco col cane, sento sempre gente molto più grande di me chiamare. Ma no, guarda che chiamano anche un sacco di persone giovani. Sì. Allora io becco l'orario della gente più grande. Vabbè, dimmi. E niente, volevo intervenire sull'argomento relativo alle signorine a sasso. Purtroppo non ho sentito tutto l'intervento del sindaco del comune di non so dove. Sì, che vuole mettere i giubbotti cadere i frangenti. Perché sì, è abbastanza ridicola come idea. Come assolutamente il rumeno che dice che le rovinano l'ordine della città. Il problema è che semplicemente invece che mettere i giubbotti da rifrangenti alle signorine e fare le multe, bisognerebbe semplicemente diventare un paese civile e fare come fanno in Europa, dove ci sono i quartieri fatti apposta, metterle anche in sicurezza, poverine, perché volenti o nolenti questo è il lavoro più vecchio del mondo. Serve perché c'è gente che ne usufruisce. Io trovo assolutamente assurdo fare questi discorsi che non servono a niente e facessero qualcosa di concreto. Ma sì, ma Federica, quelli pensano di fare qualcosa di concreto mettendo i giubbotti cadere i frangenti, inventandosi le ordinanze, multando i clienti, ma sono tutte cose che non risolvono nulla. Forse possono risolvere per qualche mese la situazione in un quartiere e uno dice, vabbè, io faccio il sindaco e dunque risolvo la situazione di quel quartiere. Poi sposti quelle prostitute da un quartiere all'altro, da un paese all'altro. Sono delle cose per fare notizia, così. Giustamente una mia amica mi scrive, eccetera, beh, l'eiaculazione precoce, immediata, giusto per liberarsi, eccetera, anche no. Giustamente le donne poi... C'è, quell'ascoltatore là crea una ribellione tra le donne, cioè dice fregatene e vieni quando devi venire, ma non si fa così, Anna Maria, giusto, no? Ma lei che ne sa? Ma Anna Maria lo sa, Anna Maria. Voleva intervenire su altro. Anna Maria? Ah, io, ci sarei io? Sì, lei. Tu. Quello che sta dicendo adesso? Sì, vabbè. Sono concordo pienamente. Con chi? Con lei, con me. Quello che è. Ah, con me, cioè uno sì, uno che sta lì senza guardare la donna, viene subito cancellato X o no? Vabbè, cancellato X, uno gli spiega che non si fa così. Bene, questo mi sembra un discorso molto interessante, Anna Maria. Cioè, invece di cancellarlo subito, come farebbero molte delle mie amiche, lei sta dicendo, tu stai dicendo, diamoci del tu, sì, stai dicendo, no, ci parlo e gli dico, guarda amico mio. Perché può darsi che appunto abbia dei problemi, ha paura ad ammalarsi, è ansioso, insomma... Penso che all'inizio sia una cosa che succeda, penso. Beh, no, adesso non è tanto all'inizio. Non ne ho esperienza, perché ho avuto esperienze diverse. Vai, Anna Maria, che mi volevi dire? Mica ti scandalizzi per questi discorsi, no? Questi sono argomenti giocosi, il mio non è giocoso. È giocoso, sai, quando uno ha le palle che si ingrossa, un altro che è giocoso. Cioè, ti posso assicurare che quando ti si ingrossa un coglione... Ma io guarda, penso che in realtà... Amica penso... mia! Pensi alle peggio cose, che ti tagliano le palle, che è tutto finito. No, non mi sono spiegata, penso. Pensi anche a diventare preghi talmente tanto che addirittura ti rivolgi pure a Maometto. Allora, cioè, oltre penso... che a Dio, a un certo punto da ateo, quale sono, pensi anche a Maometto. A certo allora, punto. Affidiamoci anche a Maometto. Penso che la situazione in cui ti trovi non c'entri niente, sarà un'infezione presa non si sa dove. Adesso è passata, per fortuna, non è la situazione adesso di adesso. Stiamo girando, non mi fare sputtanare le prossime serate perché la gente pensa che sto girando con una sorta di infezione tipo questo, secondo ma me, no, ma sarà un'infezione piccolissima. Mano, secondo me. Un'infezione piccolissima. Se io ti incontrassi per strada, ad esempio, non ti darei neanche la mano. Vabbè, ma la mano che c'entra, scusa. Perché chissà cosa hai fatto con quella mano, quindi figurati. Vabbè, che c'entra, quella lo sai. Ma no. Ma va tutto bene, secondo me passa subito e poi potrai anche prolungare se vuoi, non succederà niente, giuro. No, io prolungo sempre perché è mia abitudine. Comunque è interessante che nel momento in cui l'ONU dice che vanno stanziati aiuti, ma chi se ne frega dell'ONU? Io l'ONU me ne fotto di quello che dice l'ONU, vuoi capire o no? Che questa trasmissione di quello che dice l'ONU se ne fotte, per me l'ONU dovrebbe essere cancellata domani mattina. L'ONU, cioè, per dire della questione della riforma ma chi se ne frega, ne parlano tutti. Capisco che invece la gente non pensava, ecco, questo non lo sapevo, non pensavo fosse così diffusa questa ma che scherzi, i coglioni che si ingrossano, ma non è una malattia terribile, ma quale malattia terribile? E adesso ti guardo anche con più tenerezza. dispiacere, francamente. Anna Maria, dimmi. Non sapevo fossi così malato, ma hai anche il pass dei disabili quando vai a passeggiare. A fare in culo, va. Che hai questa... no, chiedono, Anna Maria, che mi volevi dire? Scusa, no, io prima di tutto il giustizio sull'ONU mi delizia, come molte altre cose della zanzara da molti ONU da cancellare, a me quello che dice l'ONU faccio... bisogna fare esattamente il contrario di solito. Concordo pienamente, è una delle cose per cui sono fedelissima della zanzara. No, io chiamo per un'altra cosa. Mi fatti dare il pass da Pisapia. Ma scusa, ma siccome la trasmissione sta finendo e Anna Maria vuole dire una cosa, fate dire una cosa, Anna Maria, dai. Anche perché è un argomento un po' complesso, nel senso si tratta dell'eutanasia degli animali. Cioè io ho avuto l'eutanasia degli animali è troppo triste, amica mia, perché tu dici che esistono, beh sì, certo, quando soffrono è giusto pure che anche gli animali, questo sono d'accordo, quando soffrono è giusto anche l'eutanasia degli animali. Esiste una situazione attuale sulla quale ti invito in futuro a fare, che sarebbe? Non stasera, cioè per la quale i veterinari, per un animalismo che non capisco, sono diventati nemici di questa pratica. Cioè mentre prima il proprietario portava l'animale, beh, questo è importante, tu dici gli animalisti sono contrari pure all'eutanasia degli animali, cioè i veterinari che prima ti consideravano un proprietario che poteva chiedere questa cosa senza problemi. Sì. Io ho avuto di recente un'esperienza, non io, una mia amica, ma adesso non ci penso, per raccontarla, che un animale che stava malissimo gliel'hanno ridato indietro diverse persone, dicendo di fare analisi, di fare questo, di fare, che non se la sentivano, finché poi l'ha dovuto risolvere. Che vergogna, pure questa gli animalisti fanno, impediscono agli animali di morire bene, vergognatevi chi impedisce agli animali di morire bene, di morire senza soffrire, vergognatevi, a domani. Vi voglio bene, propongo la sovvenzione al posto della pubblicità, aprite il vostro IBAN, vi sovvenzioniamo noi, siamo tanti, vogliamo meno pubblicità, meno traffico, meno borsa, vogliamo Parenzo e vogliamo Giuseppe. Grazie, vi voglio bene. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Prenda atto che ormai è tutto finito. Radio 24. La passione si sente.